La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. Nell'approfondimento di Dino Pesole riprendiamo la conversazione cominciata la scorsa settimana con Flavia Trupia, autrice del libro Discorsi potenti, tecniche di persuasione per lasciare il segno, edito da Franco Angeli. Il nostro viaggio riparte dal 28 agosto del 1963. Il protagonista è Martin Luther King. La parola adesso va a Dino Pesole. Buonasera e bentornati alla Storia e la Memoria. Sabato scorso abbiamo intrapreso una sorta di viaggio alla scoperta di alcuni dei più importanti discorsi che hanno fatto la storia. Discorsi potenti, per mutuare l'espressione dal titolo del libro di Flavia Trupia pubblicato proprio in questi giorni da Franco Angeli, che raccoglie, illustra e analizza con uno sguardo nuovo, per molti versi inedito, il contenuto dei messaggi che personaggi di spicco della nostra vita politica e sociale hanno pronunciato nel corso degli ultimi decenni. La scorsa settimana abbiamo ascoltato e commentato con Flavia Trupia tre discorsi. Quello pronunciato nel 1949 dal presidente degli Stati Uniti Harry Truman in piena guerra fredda, poi il discorso del 1946 di Alcide De Gasperi alla conferenza di pace di Parigi e infine il discorso di Barack Obama del 2009 all'Università del Cairo. Oggi siamo di nuovo in studio con Flavia Trupia. Buonasera e bentornata, prima Buonasera. Di tutto. Per ascoltare e commentare insieme altri tre discorsi riportati e analizzati con cura nel libro. Cominciamo da quello che potremmo definire il discorso dei discorsi, quello più noto, che anche oggi viene evocato quando sono in gioco diritti fondamentali da difendere e da affermare. È il 28 agosto del 1963. Martin Luther King parla al Lincoln Memorial di Washington. L'America vive la vergogna della segregazione razziale. C'è un uomo, Martin Luther King, che ha un sogno. Ascoltiamolo. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression. I have a dream, Flavia Trupia. Martin Luther King ripete questa frase più volte durante il suo discorso. Ovviamente è un effetto voluto, questa reiterazione del sogno. Sì, si chiama tecnicamente anafora ed è la ripetizione della stessa parola o di un gruppo di parole all'inizio di un periodo. Un esempio di questa incipit è quello dantesco: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Sicuramente questo espediente dà ritmo al discorso di Martin Luther King, che è un grande predicatore che prende in prestito nella piazza del Lincoln Memorial lo stile ritmato delle prediche che si fanno invece nelle chiese protestanti. Ecco, noi sappiamo perché dal punto di vista storico questo discorso è importante, perché apre di fatto una nuova epoca, però noi oggi ci soffermiamo sul contenuto, come dire, semantico anche delle parole che lui pronuncia. Oltre a questa reiterazione della have a dream, o un sogno, tutto il discorso di fatto è improntato quasi come se fosse una sorta di sermone, cioè una predica, che però evidentemente ebbe un impatto notevolissimo, fortissimo all'epoca. Luther King è stato un oratore superbo. Questa è la definizione che si può dare di Luther King. È molto allenato perché era un uomo che faceva prediche. In questo discorso c'è tutto, è il discorso dei discorsi, il discorso per antonomasia. C'è tutto perché c'è il ritmo, come dicevamo prima, ma c'è anche e soprattutto l'azione. C'è la volontà di cambiare il mondo e la realtà nel momento stesso in cui il discorso è pronunciato. Infatti Martin Luther King dice: I have a dream now. Ho un sogno adesso, la realtà deve cambiare oggi, e questo in linguistica è l'atto linguistico, quando le parole diventano azione, e questa è la volontà di Martin Luther King, perché secondo Martin Luther King la pazienza non esiste quando i diritti umani sono messi in discussione. E questo è un altro dei motivi per cui questo è un discorso veramente storico. Passiamo ora ad anni più vicini a noi e trattiamo un argomento, potremmo dire, meno nobile rispetto a quello che abbiamo appena tratteggiato con il celebre discorso di Martin Luther King. Parliamo di un discorso che attrae la nostra attenzione soprattutto per le argomentazioni che vengono offerte. È il 17 agosto del 1998. Il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, è coinvolto da mesi nello scandalo Lewinsky. È accusato di aver avuto una relazione sessuale con una stegista. Ha mentito, e questa in America è un'accusa che pesa molto più del fatto commesso. Ora decide di offrire alla CNN la sua versione dell'accaduto. Even presidents have private lives. It is time to stop the pursuit of personal destruction and the prying into private lives and get on with our national life. Our country has been distracted by this matter for too long, and I take my responsibility for my part in all of this. That is all I can do. Now it is time, in fact, it is past time to move on. We have important work to do. Real opportunities. Ecco, in questo caso, Flavia Trupia, Clinton decide di utilizzare un altro modo di comunicare, cioè si rivolge direttamente agli americani per offrire la sua versione definitiva, potremmo dire, con la speranza che il caso si chiuda dopo sei mesi di continuo dibattito. Sì, con la speranza che sia l'ultima parola. Lo fa utilizzando l'espediente del laconismo. Fa un discorso breve, laconico, un discorso che dura 5 minuti. Dopo il tanto parlare su questo tema, Clinton vuole mettere la parola fine con un discorso laconico. La parola laconismo proviene dal, vuol dire tipico degli spartani, perché la Laconia è una regione del Peloponneso dove era Sparta, e secondo gli spartani la parola doveva essere utilizzata solo per il comando, quindi parlavano poco, amavano i discorsi brevi. La scelta di parlare poco può essere, come in questo caso, un espediente retorico e stilistico che appunto si chiama laconismo. Altro aspetto interessante di questo discorso è il fatto di utilizzare la presupposizione linguistica. Clinton vuole dire in soldoni in questo discorso: chi si occupa ancora della vicenda Lewinsky vuol dire che non ha a cuore i problemi del paese, ma non lo dice in modo esplicito, lo fa capire, noi lo capiamo dalle parole, è un non dire che dice poi ad alta voce. Perché lo dice in modo presupposto? Perché dicendo le cose in modo presupposto si danno per scontate, come se fossero condivise da tutti, e soprattutto si blindano, si tolgono i significati da una possibile discussione. Messaggio laconico che serve probabilmente anche a superare nelle intenzioni e nelle speranze di Bill Clinton l'imbarazzo rispetto a una vicenda che comunque lo ha visto coinvolto per mesi sui giornali e i media di tutto il mondo. E infatti è molto divertente vedere come i media americani fanno salti mortali linguistici per non usare la parola incriminata, cioè per non riferirsi in modo esplicito al liquido seminale del presidente, e attraverso degli espedienti che si chiamano linguistici, che si chiamano l'eufemismo. Quindi parlano di vestito macchiato da fluido corporeo, materiale genetico, indizi che farebbero supporre l'esistenza di un contatto sessuale. Quindi sono tutti salti mortali. Benissimo, allora io terminerei la nostra panoramica con un discorso potente per la sua drammaticità, per la sua forza, che potremmo definire dettata dalla disperazione. È il 25 maggio del 1992, nella chiesa di San Domenico a Palermo, si svolgono i funerali della strage di Capaci, in cui sono morti Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Rocco Ticillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Rosaria Schifani, la giovane vedova di Vito, parla così dal pulpito della chiesa. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. E non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Ecco, un discorso potente per la sua drammaticità, dicevamo poc'anzi. Condivide questo giudizio? È un discorso potentissimo, fortissimo, che commuove sempre tutti noi ogni volta che lo sentiamo. Rosaria è una ragazza di 22 anni con un bambino di 4 mesi quando rimane vedova. E ha in questa chiesa affollata che tutti noi abbiamo in mente perché l'abbiamo vista mille volte in televisione o su YouTube, ha un discorso scritto che qualcuno ha scritto per lei e un prete accanto a lei glielo mette sotto il naso. Lei cerca di leggerlo ma non riesce a leggerlo perché in quel momento lei è in trance ma è lucida e non sopporta la griglia finta, non sopporta di seguire un tracciato precostituito e quindi tira fuori mano a mano una verità. Prima la tira fuori da un piccolo foro, poi questo foro diventa uno strappo, poi diventa uno squarcio, diventa una cosa enorme da cui esce la verità. Gli uomini di mafia sono qui in mezzo a noi, in questa chiesa. Questo dice Rosaria Schifati. Ecco, dal punto di vista linguistico, se si può utilizzare anche questo schema di lettura in un discorso così drammatico, qual è l'esercizio retorico, così si può dire, che utilizza Rosaria? Rosaria non fa retorica in senso voluto, perché questo discorso è veramente un discorso estemporaneo e spontaneo, non è un discorso costruito, ma è un discorso che apre questo spiraglio nei confronti della verità, e questo colpisce tutti noi, ci porta tutti dalla sua parte e creandoci anche un certo imbarazzo, perché noi vediamo una donna ferita, colpita, che parla con una voce quasi da bambina e che parla con una voce che quasi ci mette in imbarazzo per la sua verità e per la sua spontaneità. Quindi io questo lo definirei il discorso dell'antifasullo, della donna che rifiuta gli infingimenti della griglia precostituita e del cerimoniale e che tira fuori il cuore. Bene, allora molte grazie a Flavia Trupia che ci ha condotto in queste due puntate attraverso i discorsi potenti, come è il titolo del suo libro, Discorsi potenti di Franco Angeli, tecniche di persuasione per lasciare il segno. Flavia Trupia, che ha anche un blog. Discorsi potenti, blogspot.com.